L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e bentornati all'altro pianeta, quello della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente, quello che ci auguriamo hanno in mente anche le centinaia di sindaci riuniti in questi giorni e in queste ore a Firenze per il Consiglio Mondiale degli Amministratori di Enti Locali. L'acronimo raccoglie le iniziali del nome inglese ed è UCGL, se lo cercate su internet. Rappresenta oltre 1000 amministrazioni di comuni e regione di più di 100 stati del mondo. In questi giorni, come dicevamo, la riunione è nel capoluogo toscano e di quello che accade a Firenze parleremo in questa puntata dell'Altro Pianeta. Ne parliamo quasi in contemporanea con Firenze e ne parliamo con Simone Tani, dirigente delle strategie di sviluppo del Comune di Firenze. Non siamo ancora a metà, però il lavoro che è partito è veramente di grandissimo rilievo. Ci sono centinaia di sindaci che hanno pacificamente invaso Palazzo Vecchio ieri e oggi sono al Palazzo Congressi. C'è molto entusiasmo, molta energia e anche la voglia per i comuni di essere maggiormente riconosciuti in questo ambiente. Perché la sensazione è che non si presti troppa attenzione quindi ai comuni in questo momento? Beh sì, basta guardare i vertici di Busan, di Durban, quei i vertici recenti che sono stati fatti sull'ambiente e il rischio è anche il vertice di Rio dell'anno prossimo, nel quale ci sono grandi interventi da parte degli stati, da parte delle ONG, le organizzazioni non governative, da parte sempre di più del settore privato, però si stenta ancora a trovare un ruolo per le autorità locali, mentre, come dimostra l'esperienza del patto dei sindaci e delle politiche europee, dove si sta facendo veramente le cose è a livello delle città e le città fanno le cose ma non vengono riconosciute dove si discute delle stesse cose. Ma la sensazione appunto è che da un lato c'è una città qui dove sindaci di centinaia di città del mondo discutono e anche si scambiano esperienze, noi abbiamo decine e decine di riunioni in cui una città magari Teheran sta raccontando a Seul come fare una cosa, Marrakesh lo sta raccontando a Malmo e insomma sta succedendo un grande lavoro anche di scambio di esperienze e di volontà comune. Dall'altra parte, dove si governano queste dinamiche a un livello magari forse più alto, magari senza la necessaria sensibilità per le popolazioni locali, per le persone fisiche, vorrei dire, non c'è forse la stessa volontà di arrivare a delle conclusioni, a degli sviluppi. Senta, a proposito di esperienze che i comuni si stanno scambiando, ce ne sono tante sul risparmio, ad esempio, energetico, ce ne sono di vario tipo. Lei è rimasto colpito da qualcosa in particolare? Qui ci sono moltissime esperienze. Ne cito giusto una perché la stiamo per presentare fra qualche minuto. È sul tema della mobilità elettrica. Noi abbiamo il primo congresso questo nel quale muoviamo centinaia e centinaia di persone tutte con automobili elettriche di varie marche che l'hanno messe a disposizione, quindi è il primo congresso diciamo CO0 e siamo veramente molto soddisfatti, tutti sono rimasti molto colpiti di come queste macchine elettriche che poi di fatto arriveranno sul mercato fra qualche mese funzionano bene e hanno portato molta soddisfazione da parte di tutti. Poi presenteremo e firmeremo anche dei protocolli per lo sviluppo di biciclette elettriche e per l'utilizzo di biciclette elettriche in città in modo massiccio, immaginando di avere centinaia e poi migliaia di biciclette elettriche. Questi sono oggetti che sono molto adatti per la mobilità nelle città italiane. Le città italiane a livello internazionale sembrano proprio per tutti gli osservatori dei laboratori ideali per far muovere mezzi elettrici. Siamo convinti che l'Italia e le città italiane possono diventare in questo settore degli apripista a livello internazionale. Senta, poi dopo la lascio tornare ai lavori dell'incontro, ma l'ultima questione è proprio che lei ha sollevato della mobilità elettrica, è una questione importante e anche difficile però da affrontare, perché poi dopo significa una volta messa a punto togliersi tanti problemi, ma prima risolvere tanti problemi, per esempio le famose colonnine di ricarica, non è uno degli ultimi, ecco. Le città italiane su questo fronte, da quello che vede lì, visto che avete a disposizione tutti i sindaci, sono pronte, si stanno attrezzando, cosa hanno bisogno per poter procedere lungo questa strada? Diciamo che ci sono, è come se volessimo fare una torta, ci sono tutti gli ingredienti, non è stata ancora messa a punto la ricetta per fare una torta che è buona da mangiare, nel senso che ci sono, qui se uno viene vede le macchine elettriche, vede delle nuove colonnine abbiamo diverse decine che abbiamo messo anche funzionanti, vede anche una serie di regolamentazioni del traffico che incentivano questo tipo di mobilità. Certamente, ecco, l'autorità per l'energia non ha ancora definito il prezzo, per quanto costerà l'elettricità per chi utilizza le macchine elettriche. Non è stato ancora definito quale sarà il modello del soggetto gestore. Cioè, ci sono una serie di decisioni, di nuovo, che vengono prese a livello non locale, ma che vengono prese a livello europeo o nazionale, che non essendo ancora state prese, tengono ancora il mercato, lo sviluppo del mercato un momento in stand-by, ma diciamo tutti gli elementi sono pronti perché ci sia, al di là, non appena verranno prese queste decisioni, ci sia un'esplosione di questa mobilità elettrica. Il problema non è tecnologico, è organizzativo. Basterebbe che ogni volta che un comune dà un'autorizzazione per fare un nuovo palazzo, ragazzi, a mettere una colonnina, basterebbe, cioè c'è molto lavoro di regolamentazione più che di tecnologia, perché a questo punto le tecnologie sono buone, abbiamo delle colonnine qui in piazza che in 20 minuti ricaricano l'80% della batteria, quindi praticamente è diventato come andare a fare poco più che benzina, però sono ancora tante questioni regolamentari che non sono state ancora sciolte. E poi noi, l'Italia è l'unico paese europeo che non ha una politica di incentivi per l'acquisto di macchine elettriche, quindi questo è un altro elemento importante. Ecco, neanche farlo apposta questa mattina, pochi minuti dopo il collegamento con Simone Tani, Ubaldo Cianciulli, il nostro collega in città, intervistava il ministro dell'Ambiente Corrado Clini, appena arrivato a Firenze per partecipare appunto all'incontro dei sindaci del mondo. Ma direi che incentivi per il passaggio elettrico ci sono già, la nostra normativa già li prevede. Anche qui quello di cui abbiamo bisogno è un sistema integrato di offerta di elettricità distribuita a livello locale in maniera efficiente, in modo che rappresenti l'infrastruttura per l'alimentazione delle automobili elettriche. E di nuovo, questo vuol dire che il progetto per l'auto elettrica nelle città non è diverso dal progetto per la diffusione dei sistemi di generazione distribuita dell'elettricità. Ed ecco ancora il ministro Clini al microfono di Ubaldo Cianciulli sugli enti locali e la loro capacità di rendere efficiente il sistema. Abbiamo visto sia ieri, lo stato lo vedremo anche oggi, che comunque i piccoli comuni, i piccoli enti locali riescono molto meglio ad adoperarsi per le politiche ambientali rispetto a quanto riesce invece, diciamo, la grande comunità. Sono più sensibili o riescono comunque a lavorare più agevolmente, comunque con maggior interesse per l'ambiente? No, la chiave è un'altra, non è tanto la dimensione quanto la struttura degli interventi dal punto di vista energetico, per esempio dal punto di vista economico. Oggi noi confrontiamo due prospettive dal punto di vista energetico che poi ben si verificano nella discussione in corso nel Parlamento europeo sulla direttiva per l'efficienza energetica. Una prospettiva è quella tradizionale alla quale siamo abituati, grandi impianti di produzione di elettricità che alimentano la rete elettrica attraverso i grandi sistemi di distribuzione dell'elettricità. Questo impianto energetico ha un'efficienza, quando va bene, attorno al 50%, cioè il 50% dell'energia che entra, per esempio del gas naturale, che entra nel sistema di produzione dell'elettricità viene usato e il 50% si perde. Invece i sistemi di generazione e distribuzione locale dell'elettricità e in generale dell'energia, perciò anche del calore e del freddo, riescono ad avere efficienze al di sopra dell'80%, riescono ad essere gestiti in maniera molto più flessibile e a rispondere perciò in maniera puntuale alla domanda. Ecco, questa è la rappresentazione tecnologica ed economica della diversità degli approcci. E lo sviluppo sostenibile e il futuro anche delle tecnologie è più incardinato sulla dimensione locale dell'offerta che non sui grandi sistemi. Questo è un po' il quadro. Allora, in questo contesto è evidente che un buon governo dei sistemi energetici, dei servizi a livello locale, ha molti più risultati di un buon governo a livello nazionale. Però sono necessari entrambi. Un buon governo a livello nazionale oggi serve per rafforzare la capacità delle economie sviluppate e delle economie emergenti di crescere con solide strutture a livello locale. E sempre da Firenze l'intervista del nostro collega Cianciulli al sindaco di Kabul, Mohammed Nawandish. You know, the Kabul city is one of the cities which is destroyed during the 30 years wars completely. La città è stata pesantemente distrutta durante la guerra e quindi c'era bisogno di rifare tutto, principalmente le infrastrutture, le strade, i palazzi. Abbiamo fatto già un buon lavoro, ma c'è ancora tantissimo da fare, però allo stesso tempo cerchiamo anche di rendere Kabul una città moderna e con tutti gli standard che avete voi. Quindi ad esempio abbiamo piantato 1,5 milioni di alberi a Kabul, che può sembrare una cosa superflua, ma invece è importante anche quello. E lo stesso gli investimenti per l'illuminazione delle strade e tutte le infrastrutture. E oggi era molto interessante la sezione sull'illuminazione, perché anche noi abbiamo iniziato a applicare il risparmio energetico con dei tipi speciali di lampadine per l'illuminazione pubblica. Change all the lighting system to LED system. Insomma, rinnovamento e tecnologie per l'efficienza, soprattutto energetica, ma non solo. A Firenze abbiamo trovato un esperto per questo settore, che è Nicola Villa, Global Director di Urban Innovation di Cisco, e cioè di una multinazionale che è specializzata in forniture di soluzioni di rete per la comunicazione e la gestione anche di sistemi complessi. Qual è, gli abbiamo chiesto, la situazione italiana? Siamo a un buon punto, nel senso che c'è molta attività e anche molta innovazione, secondo me, rispetto ad altri paesi del mondo sulla parte che riguarda l'energia. Quindi lì siamo sia con politiche nazionali, sia con politiche private, come ad esempio quelle che ha attuato l'Enel, sia con appunto l'attività molto attiva delle amministrazioni locali. Lì c'è molto che si sta facendo, soprattutto se confrontiamo con altre parti d'Europa. Le carenze, secondo me, sono: uno, che manca praticamente un'infrastruttura pervasiva a banda larga nelle nostre città, quindi non è più un discorso di smart grid che funziona su una rete energetica, ma la rete energetica deve un po' combinarsi con la rete a banda larga. E questo lo vediamo funzionare molto bene in paesi come ad esempio la Corea, che dopo aver lanciato un piano nazionale e molti piani locali sulla banda larga, adesso lancia un piano di green growth, lo chiamano loro, quindi di sviluppo verde, che fa leva su questa infrastruttura. Quindi l'Italia ha ancora una carenza, secondo me, critica sulla parte dell'infrastruttura digitale. Il secondo problema è il problema che gli americani definiscono quella delle smart regulations. Quindi c'è una selva burocratica praticamente molto difficile da governare, che non permette all'innovazione di venire attuata. Sono due elementi sostanziali, perché sì. Mancano le autostrade e manca la capacità di capire: io al casello devo pagare, non devo pagare, chi paga, quanto l'investimento pubblico rispetto al privato, posso creare delle partnership tra pubblico e privato. È un problema, quindi l'Italia è un po' la nazione a livello internazionale che viene riconosciuta come nazione che fa dei pilot molto, molto importanti, però manca la scalabilità. Senta, ovviamente questi due problemi andrebbero affrontati di pari passo. I problemi sono d'accordissimo che vanno affrontati allo stesso tempo, sia con una politica nazionale ma anche con iniziative locali. In molte nazioni, prendere ad esempio l'India piuttosto che il Brasile, la politica nazionale non è delle più snelle, ma le pubbliche amministrazioni locali si fanno carico loro di sviluppare questo tipo di politiche legate alla sostenibilità e all'ICT con dei progetti che partono da loro, quindi non aspettano il governo centrale che parta, cosa che invece sta succedendo, secondo me, molto bene per quello che riguarda l'energia in senso lato, anche a livello europeo, ma per quello che riguarda banda larga e innovazione le iniziative sono molto, per dire all'americana, bottom up, quindi sono locali. E lì il governo si trasforma da investitore in toto, grosse infrastrutture, i budget oggi sono scarsi, a orchestratore, quindi a coordinatore di iniziative private, ma anche a quello che fa un po' i progetti pilota, che poi scatenano una relazione di mercato. E con questa intervista abbiamo fatto il punto su alcune delle discussioni in corso a Firenze, nel corso, vi ricordo, del Consiglio Mondiale degli Amministratori di Enti Locali. L'altro pianeta. E Ed eccoci qua dopo la viabilità, seconda parte dell'altro pianeta. È il momento che, come sempre, dedichiamo alla intervista e questa settimana ospitiamo l'architetto Mario Cucinella, reduce dal vertice di Durban sul clima, dove ha presentato il suo progetto Green Schools per Gaza, realizzato in collaborazione con l'UNRWA, che è l'agenzia dell'ONU per i rifugiati. È un piano per la realizzazione, appunto, di scuole autosufficienti a livello energetico ed idrico. Cucinella sarà la prossima settimana in Israele per un incontro cui parteciperà anche il ministro della protezione ambientale israeliano e poi andrà nella striscia di Gaza per gli ultimi sopralluoghi. Il progetto ha infatti già i finanziamenti della Islamic Investment Bank e quindi potrà partire non appena saranno definitivamente individuate le aree sulle quali verranno costruite queste scuole green, queste scuole sostenibili. È, diciamo, il primo vero edificio che ha un nuovo rapporto con il clima e con il tema della sostenibilità. Quindi la prima scuola che raccoglierà l'acqua piovana, la prima scuola che non avrà bisogno di attaccarsi alla rete elettrica del sistema della distribuzione elettrica che c'è a Gaza e quindi e che migliorerà diciamo, le condizioni della vita quotidiana di questi ragazzi che vanno in queste scuole in condizioni difficili. Così, tra l'altro, potranno andare a scuola in tutte le, al di là di quello che non dipende da loro, ma insomma in tutte le condizioni, poiché queste scuole hanno una capacità di autosufficienza, insomma, che non... Esatto, quindi in condizioni, guardi, l'esercizio più interessante di questo progetto è che siamo in un luogo dove non abbiamo due possibilità, o la facciamo green o la facciamo come viene, perché lì non c'è niente, no? C'è una situazione direi drammatica dal punto di vista delle risorse, non solo quelle naturali ma anche quelle che abbiamo noi quotidianamente, la luce, l'acqua, le cose più semplici. Quindi viviamo in un contesto che è già fortemente caratterizzato da una mancanza di base di quelli che sono gli elementi della vita quotidiana. Allora, in un contesto come questo, l'idea della sostenibilità e quindi l'idea di costruire edifici che consumano poco, che migliorano la qualità della vita delle persone senza chiedere alla tecnologia, senza chiedere a nessuno, è la vera sfida che ancora qui da noi non è partita, perché noi qui, ed è questo il valore di questo progetto, noi parliamo tanto di sostenibilità, però alla fine comunque vada, attacchiamo la presa alla spina, le cose vanno lo stesso, ecco, l'acqua e la possibilità non ce l'abbiamo e quindi la grande idea, oppure insomma comunque il valore di questo progetto è che alla fine con l'architettura diamo una risposta alla sostenibilità, ma quella vera, cioè lì non abbiamo altre possibilità. Ma volevo solo darle qualche dato semplice, però che le dà anche un po' la dimensione del problema, no? Cioè, per dire, la Gaza è un territorio che è abitato da 1.450.000 persone, no? Di cui 1.000.000 sono tutti rifugiati, quindi ci troviamo anche in una situazione importante perché è una piccola zona di terra, no? Che ha una densità di popolazione molto forte e l'80% della popolazione che abita questo territorio dipende dagli aiuti umanitari, no? Poi l'elettricità viene data a intermittenza, quindi diciamo che abbiamo grosso modo durante la settimana un taglio di 60 ore alla settimana di elettricità, quindi è anche difficile non pensare allo sviluppo se tu basi il tuo sviluppo sulle risorse che ti vengono date da fuori, no? Questo è molto importante perché l'idea dell'autonomia della scuola dal punto di vista energetico per ragioni ambientali, no? Quindi io costruisco una scuola che ha del film sottile di ultima generazione che costa poco ed è efficiente per fare l'elettricità, ho il 70% dell'autonomia sull'acqua perché a Gaza è un clima molto secco e non piove così tanto, però vuol dire che in qualche modo ho costruito anche una piccola autonomia politica, no? Perché a questo punto io posso andare avanti comunque, che mi toglie la luce, che non mi dai l'acqua, io riesco a far andare la scuola lo stesso, che mi sembra che sia il secondo livello del valore, no? Della sostenibilità, che è quella proprio di dare un'opportunità in più, no? Ovviamente non lo vedo come una posizione politica perché non è il mio mestiere, però pensare in una scala diversa che l'autonomia dell'energia e l'accesso alle risorse diventi qualcosa che si sta riducendo in piccoli pezzi, quindi ognuno di noi potrà in futuro produrre la propria energia per il proprio consumo e quindi renderci più più autonome nella gestione della nostra risorsa, a me sembra che sia anche il grande tema planetario di come faremo a gestire i temi dell'energia dei prossimi decenni. In fondo il gas è un piccolo prototipo di una nuova idea di questo rapporto tra il clima, le risorse e la tecnologia. Questo per me è l'esercizio più interessante. Lei perché si imbarca in questo genere di progetti? Ma per noi, guardi, io credo che ci sia un tema. Potrebbe costruire grandi palazzi e forse guadagnare più facilmente, no? Guardi, io credo che siamo arrivati un po' anche alla fine di questo, almeno dal mio punto di vista. E io ho tanti anni che mi occupo di questi temi legati alla sostenibilità, cercare di fare gli edifici che consumano poco. Però devo dire che c'è anche un senso di responsabilità che è nato in questi ultimi anni nel vedere che alla fine l'impatto del nostro lavoro deve essere in qualche modo molto più incisivo. Ecco, in questo momento io vedo da noi, in Italia in particolare, che c'è molta inerzia su questi temi, quando l'agenda ce l'abbiamo di fronte, non? Cioè, noi lo sappiamo che cosa succederà nel 2020, nel 2050, se non cominciamo a lavorare su questi temi. E alla fine questa logica del profitto per il profitto non ci sta portando nella direzione di quell'ambizione che abbiamo tutti, no? Che è quella di vivere in un luogo migliore, di condividere le risorse e di vivere in un luogo dove forse condividiamo un po' di più, no? Grazie a Mario Cucinella per essere stato con noi. Adesso è il momento dell'altro nostro appuntamento settimanale con articolo 9, come l'articolo della Costituzione italiana che dice: la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Buongiorno da Marco Carminati, benvenuti. Abbiamo oggi in collegamento con noi Lorenzo Bazzana, che è il responsabile ortofrutta di Coldiretti. Buongiorno, dottor Bazzana. Buongiorno. Ecco, con lei parliamo di un tema molto particolare, tra l'altro molto caro a tutti quanti gli italiani, le castagne. Ecco, il nostro paese è ricchissimo di località che si chiamano Castagneto. Per esempio, io conosco un bellissimo posto in Toscana che si chiama Castagneto Carducci. Dove sono i grandi castagneti nel nostro paese? Ma diciamo che il nostro paese è sempre stato caratterizzato da avere una copertura castagno notevolissima, sia sulle Alpi che a livello di Appennini, fino alle isole addirittura. Dobbiamo considerare che noi una volta producevamo una quantità di castagne che è pari all'attuale produzione mondiale. La castagna era considerata addirittura il pane dei poveri, laddove c'erano appunto popolazioni che non potevano utilizzare il frumento o non avevano il frumento a disposizione come fonte di amidi, come fonte di carboidrati. Certo. Oggi noi queste vaste estensioni di castagno le troviamo un po', dicevamo, in giro per tutta l'Italia, tenendo presente appunto che ci sono delle regioni particolarmente vocate, come ad esempio la Campania, la Calabria, il Lazio, la Toscana, il Piemonte, ma un po' in tutte le regioni appunto possiamo trovare queste coperture boschive che in taluni casi sono ancora appunto utilizzate per la produzione dei frutti. Ecco, insomma, dei boschi davvero generosi. Lei ha parlato del pane dei poveri, lo chiamavano anche le ghiande di Giove, i nostri antichi. Poi la cosa curiosa è che un prodotto che era essenzialmente povero oggi è diventato invece un prodotto molto apprezzato e che diventa di fascia medio-alta, perché comunque diventa un prodotto nelle sue diverse declinazioni che sicuramente è apprezzato dai buon gustai, ma che da prodotto povero ha saputo reinventarsi come prodotto di una cucina anche d'élite. Ecco, ma tutti noi quest'anno ci siamo accorti di un fatto abbastanza evidente, che di castagne sulle nostre tavole ce ne sono ben poche. Ecco, voi naturalmente di Coldiretti avete monitorato questo problema. Ecco, che cosa è successo dai castagneti italiani perché appunto producano quest'anno così poche castagne? È chiaro che questo è un fenomeno che ha vissuto, diciamo così, tutta una sua trafila nel corso degli anni. L'Italia aveva una leadership mondiale a livello di produzione di castagne. Oggi è il terzo produttore mondiale di castagne dopo la Cina e dopo la Corea, e questo evidentemente anche per il fatto che molto spesso c'è stato un abbandono nelle zone boscate, nelle zone di montagna e di collina, e quindi abbiamo avuto comunque una minor coltivazione, minor cura dei castagneti. A tutto questo si è però venuto ad aggiungere un ulteriore problema. Ah, ecco. Un ulteriore problema è rappresentato da un piccolo insetto, quella che potremmo definire una vespetta, perché in effetti è un imenottero, che è il cosiddetto cinipide del castagno, che è un insetto che è arrivato appunto dall'Oriente, è arrivato dai territori tra la Cina e il Giappone, e in sostanza crea dei problemi alle coltivazioni di castagno, e fra la presenza di questo insetto e magari un andamento climatico non particolarmente favorevole, quest'anno riusciamo a stimare che circa il 50% delle castagne appunto non sia stato raccolto. Addirittura il 50%? Una diminuzione, certo, un dimezzamento praticamente della produzione di castagne. Caspita, quindi è una cosa allarmante. E che cosa si può fare per invertire la rotta? È una cosa talmente allarmante che appunto c'è stato ovviamente il mobilitarsi di tutte le strutture interessate delle amministrazioni locali, provinciali, regionali e anche a livello nazionale con anche il Ministero appunto delle politiche agricole. Nella sostanza quello che è stato individuato anche per esperienze pregresse di altri territori come ad esempio il Giappone poter essere la soluzione è una soluzione di tipo se vogliamo così di lotta biologica, ecco. Nel senso che queste vaste estensioni di castagneti che come dicevamo prima ricoprono un po' tutti i nostri territori di collina e di montagna che sono spesso in zone parco non possono essere, se non in rarissimi casi, oggetto di una lotta che utilizzi principi attivi chimici. Bisogna trovare una soluzione utilizzando un parassita del parassita. Oh, ecco, quindi un parassitoide che è un'altra vespetta che però invece di andare a attaccare, diciamo così, i castagni al vizio, al pregio se vogliamo, di parassatizzare il parassita. Ecco, quindi noi abbiamo bisogno in sostanza di una vespetta che mangi la vespetta che ci mangia le castagne in modo che noi possiamo tornare a mangiare finalmente le castagne. Dottor Bazzana, io la ringrazio molto per queste indicazioni e agli ascoltatori auguro una buona giornata. Grazie anche a Marco Carminati e grazie a tutti voi per essere stati con noi fino a questo punto. L'appuntamento è per la prossima settimana alla stessa ora. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.